ed è spaventata dalle notizie del coronavirus. Nonostante il figlio, la nuora e i tre nipoti cerchino di proteggerla filtrando le notizie e cercando di sdrammatizzare la situazione. I suoi movimenti stanno diventando ogni giorno più lenti, ma farla sentire al centro delle nostre vite le dà energia e le restituisce buon umore. Ogni sera, dopo la cena, c'è l'appuntamento per un saluto via Skype con i nipoti. Uno sta a Milano, l'altro sta a Ferrara. Il consueto «Che cosa hai fatto oggi?» e non manca mai qualche risata. Amelia ha sempre amato cucire. Con le sue mani sa costruire qualsiasi cosa. Lo ha imparato quando è emigrata in Australia, alla fine degli anni 50. Lei e il marito Luigi vivevano lontani dai centri abitati. È partita dall'Italia con la sua macchina da cucire Necchi, nuova di zecca, regalo di matrimonio. Quando poi sono rientrati in Italia, la macchina da cucire Necchi è tornata con loro. Ieri Amelia non era di buon umore. Così ho lanciato l'idea di cucire delle mascherine antivirus ecologiche, utili per tutta la famiglia. Abbiamo guardato insieme più volte il tutorial che ci suggeriva i materiali e le operazioni da eseguire. Abbiamo costruito insieme il cartamodello della mascherina. Abbiamo cercato negli armadi vecchi ritagli di tessuti di cotone. Abbiamo tagliato, imbastito e poi cucito. Le sequenze delle operazioni da fare si perdevano, le mani e i piedi si muovevano con lentezza, ma sicure sulla vecchia macchina Necchi. È bastato starle vicina e aiutarla a non perdere nessun passaggio. Abbiamo realizzato ben due mascherine di cotone colorato e ieri sera, su Skype, le mostrava ai nipoti con particolare orgoglio. Brava Amelia! Fake names uncovered before the dawn. It is you, the skies are open. Grow up and be the grown-ups. We deny to bring it on. 'Cause we don't say no wherever we go. Whenever we die, we steady apart. 'Cause we don't say no whenever we start. Whenever we fall, we're steady apart. White stare. Il diario che stiamo per raccontarvi parla sempre di una nonna, ma parla di una nonna che non è con suo nipote, non è con sua figlia, non è con i parenti, è da sola. E in questo periodo in teoria lei si avvicinava di solito al nipote che vive lontano, ha una piccola casa per stare vicino al nipote, e questo di solito era il periodo in cui ci andava. E non può andarci, ovviamente, deve tenersi lontano dalla figlia e dal nipote. Vorrebbe andarci con tutte le sue forze, al punto che dice: la nonna verrebbe a prenderti volando. Marzo 2020, pandemia, stiamo in casa. Anche io, come tutti, resto in casa. Sono una signora anziana, anche in tempi normali non esco molto, se non per fare la spesa o fare due passi sotto casa. La cosa quindi mi turba solo perché sono costretta a rimanere rinchiusa. Per far passare il tempo, in modo costruttivo intendo, ho incominciato anzitempo le pulizie di Pasqua, lavando tutto ed insistendo sui punti più nascosti. Tiro fuori tutto da armadietti e scaffali, passo il disinfettante che mi è rimasto nell'armadietto, passo e ripasso, lavo tende, cuscini, copri divano. Le pulizie vanno bene, ma al di là di sentire odore di pulito, domani ricomincerò di nuovo. Per lasciare una traccia di questo periodo, voglio fare qualcosa che rimanga. Quindi tiro fuori la mia cesta dei lavori e posso scegliere, infilare perline per farne orecchini e braccialetti, schiacciare le capsule del caffè per farne piccoli bijou, lavorare all'uncinetto. Ho sempre avuto una passione e una certa manualità per tutte queste cose, che facevo poi regalavo ad un'associazione benefica per ricavarne qualcosa, ma da tempo avevo messo tutto da parte. Alla fine, cerca e ricerca su YouTube, ho deciso di fare dei puntaspilli a forma di fiore da allacciare al polso. Sono deliziosi. Mi sono piaciute anche delle presine da fare ad intarsi o per utilizzare ritagli di stoffa rimasti da qualche abito. Richiedono parecchio tempo ed attenzione, quello che mi serve. Poi vengono molto carine, sempre. Le ore passano, ma il mio costante pensiero va al mio nipotino, vivace bimbo di 3 anni che mi chiama in video e mi dice sempre: «Nonna, quando vieni a prendermi per andare nella casetta piccola?» La casetta piccola è l'appartamento che ho acquistato appositamente sul lago di Garda, a pochi chilometri da casa di mio figlio, dove passo l'estate, andando sempre a prendere il mio piccolo.